festa, col sussurrar de l'onde, col sussurrar de l'onde, e le dita e confonde, e le dita e confonde, confonde e cielo e mar. La fata tempesta, col sussurrar de l'onde, col sussurrar de l'onde, e la vita è confonde, e la vita è confonde, confonde cielo e mar, e cielo e mar. Con sussurra de l'onde, e da gita e confonde.